Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sempre sarò un po' noioso, ma sono informazioni di servizio utili quelle che brevemente vi darò. La prima è il nostro sito radio24.it, potrete scaricare e ascoltare via podcast con tutta la tranquillità che vorrete le puntate della mia trasmissione, ma anche di tutte le altre trasmissioni. In più, sotto il mio profilo potrete anche dialogare con me attraverso il blog, lo conoscete, Guardie o Ladri, lo trovate su Radio 24 o sull'home page del Sole 24 Ore. La seconda informazione di servizio è quella della nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. Devo dire che il tema che affrontiamo oggi è davvero molto molto interessante, perché in questo momento, al momento in cui noi stiamo parlando, gli ambulanti di Torino, nel silenzio devo dire dei media nazionali, ovviamente non di quelli locali come la Stampa, stanno inscenando una protesta fatta, come dire, più che altro di subbuglio polemico, di preoccupazione, di tensione, perché hanno paura che la liberalizzazione contenuta nella cosiddetta direttiva Bolkestein europea, quindi, coinvolga anche loro. Come? Attraverso la liberalizzazione di quelle aree che loro occupano, quindi attraverso la liberalizzazione di quello che poi è, che porta questi ambulanti a gestire degli spazi ben precisi, che poi hanno un contratto di regolamentazione con il comune, si paga l'acqua, luce, gas, rifiuti e quant'altro. Ed allora questa liberalizzazione riguarda tutti, riguarda anche questo specifico settore commerciale, quello del commercio degli ambulanti, quindi del commercio ambulante, oppure no? Allora, io ringrazio il radioascoltatore davvero di cuore che ci ha sollevato il problema. Il radioascoltatore è un ambulante, ma è anche il coordinatore del mercato Santa Rita di Torino. Buongiorno, signor Dario Guidetti. Buongiorno a lei, dottor Galullo, e a tutti i radioascoltatori. E ringrazio il professor Carlo Lottieri, che è direttore del Centro Studi per il Libero Mercato Bruno Leoni, che ci aiuterà a fare chiarezza su questo tema. Buongiorno, professor Lottieri. Buongiorno. Allora, io direi di partire dalla denuncia del caso. Allora, Guidetti, che cosa sta accadendo in questo momento a Torino? Sta accadendo, hanno cominciato a fomentare manifestazioni, ma siccome io mi faccio riferimento al giorno di martedì 23 marzo, dove c'è stata quella chiusura di tutti i mercati, nei giorni appena precedenti ho visto girare per il mercato dei sindacati, da cui io non è che proprio do una massima fiducia per la chiarezza, non è tanto per il discorso, è che pensavo che fosse gestita da loro la cosa, anche perché eravamo in periodo pre-elezioni, sicché non ho dato subito il peso che invece altri ambulanti di Porta Palazzo hanno scatenato proprio solo personalmente loro, cioè come ambulanti senza nessun collegamento con i sindacati. Sindacati o cose del genere, hanno scatenato un putiferio, ecco, che io ho cercato di andare anche là a cercare di farlo rallentare un momento, perché la cosa veramente poteva prendere una piega brutta e pericolosa. Allora, diciamo che Porta Palazzo è il mercato storico, anzi invito a visitarlo, di Torino, è un po' come Porta Portese a Roma, forse qualcosa in più, qualcosa in meno a seconda dei gusti. E quindi questi ambulanti di Porta Palazzo stavano scatenando, come dire, una protesta un po' magari superiore alle righe, sopra le righe. Lei è intervenuto per dire: prima cerchiamo di capire, ecco, ma da capire, poi lo vedremo col professor Lottieri cosa c'è. Ma quello che invece è la vostra protesta, contro cosa voi vi rivoltate? Cioè, che cosa non vi piace di questa direttiva? Perché temete per il vostro posto di lavoro, in buona sostanza? Perché di questo si tratta. Qualcuno sostiene che l'articolo 16 e 19 di questa direttiva Bolkestein, che il nostro governo avrebbe firmato, porta delle liberalizzazioni a livello di tutti i mercati, ma compreso, sembra, anche scuole o cose del genere. Ecco, io questo volevo cercare di capirlo perfettamente per sapere Benissimo. Come muovermi in futuro, siccome questa cosa sembra che prenda una piega abbastanza pesante, mi spiego? Allora, vuol dire, io volgarizzo e vediamo se dico bene o dico male, ma questo poi lo chiedo al professor professor Lottieri, anzi glielo chiudo subito. In soldoni vorrebbe significare che quell'area che voi occupate viene messa all'asta al miglior offerente. Voglio dire, c'è l'area di Porta Palazzo, quel determinato spazio, allora finora è stato concesso in determinata maniera, adesso si liberalizza, quindi cosa succede, professor Lottieri? Allora, la situazione, a quanto ho capito, non è ancora definita, in quanto certamente la direttiva Bolkestein, soprattutto nella prima versione, ma poi anche in quella approvata dopo molte resistenze e molte modifiche, puntava e punta ancora in qualche modo a liberalizzare i mercati. Però il problema è che di fronte a queste resistenze, un po' appunto si è fatto riferimento a queste associazioni di categoria o sindacali, se vogliamo definirle così, e chiaramente anche il fatto che ci fosse sotto elezione ha fatto sì che in realtà c'è stata una serie di passi indietro, per cui mentre inizialmente si era detto che sarebbe state appunto le concessioni messe a gara, pare che, questa è la Confcommercio come fonte, in realtà ci sarebbe questa obbligatorietà, comporterebbe una deroga da parte delle regioni all'assegnazione dei posteggi, quindi di fatto questa liberalizzazione sarebbe, a quanto si intende per ora, ancora rinviata, di fatto per ragioni politiche. Non è una bella cosa però, voglio dire, mi sembra che il giudizio che si ha da dare sia tutt'altro che positivo, allora, cioè invece che allargare gli spazi di libertà si tengono ancora chiusi. Allora, io arrivo su questo, cioè sulle idee e sulla visione che si ha delle cose, però voglio riassumere con lei, professor Lottieri, cioè è vero quello che denuncia il nostro radioascoltatore, quindi quello che succede a Torino in realtà dovrebbe succedere ovunque, vale a dire che quello che fino a ieri era uno spazio dato in un certo modo, ad un certo punto, grazie al recepimento di questa direttiva europea, con questa concessione che il comune ha da per le aree mercatali viene messa a gara, quindi vuol dire liberalizzare questo spazio, esatto, commerciale. Ecco. Però ci sarebbe la possibilità, a quanto si è inteso, per le regioni di non farlo, una sorta di deroga a questo nell'assegnazione dei posteggi. E quindi questo adesso spetterà alla regione Piemonte stabilirlo, alla regione Lombardia stabilirlo. Ecco, a lei perché piace questa liberalizzazione che invece non piace a Guidetti? Per una ragione molto semplice, vede, chi vive di commercio vive di profitto, cioè compra a un certo prezzo e vende a un prezzo superiore, cosa che io trovo più che legittima però ad una condizione, cioè che questo profitto avvenga in un ambito di concorrenza, diversamente si tratta di una rendita, cioè qualcosa, una sottrazione di risorse agli altri. Ecco, secondo me, io capisco il punto di vista del mero interesse da parte dei commercianti, però hanno sbagliato bersaglio, invece che prendersela con il mercato, con l'esigenza di tutelare la libertà di commercio, che prima che essere la libertà del consumatore, la libertà di chi vuole intraprendere, dovrebbero prendersi con la tassazione, con la regolamentazione, con l'onere enorme dello Stato, certo, che grava, certo, su di loro, certo. E invece diventa una guerra, come dire, spesso una guerra tra poveri diventa. Allora, professor Lottieri, devo dire che lei è stato chiarissimo e che le sue sono ragioni vere, il che non vuol dire che io prenda parte a questa contesa, ma c'è una parte di verità che lei ci sta raccontando. Vediamo la parte invece di chi con questa verità deve farci i conti. Guidetti, il professor Lottieri ci sta dicendo: attenzione, non si può vivere di rendite di posizione, attenzione, non si può impedire una libera concorrenza, non si può frenare, non si può andare contro quello che è il mercato e le regole del mercato, che devono essere convenienti per tutti, per chi vende e per chi compra. Ecco, lei che cosa oppone a chi dice però voi volete vivere di una rendita di posizione? Ma non è una rendita di posizione, qua si tratta di perdere migliaia di posti di lavoro, cioè il discorso non è solo limitato a quello che uno, il mestiere che svolgo da commerciante è ovvio che deve darmi del profitto, questo sì, ma il posto che detengo, se fino a ieri doveva essere mio, da domani non potrà più essere mio, non riesco a capire se così, ecco, deve funzionare. Però non c'è un diritto di prelazione, voglio dire, non c'è un diritto divino che dica che quello spazio deve essere occupato a vita da chi fino a quel momento lo ha detenuto. Su questo è d'accordo o no? Ci sono delle concessioni comunali automaticamente che si sono sempre rinnovate automaticamente, adesso vogliono variare qualcosa su questo punto, è lì il discorso. Certamente, ma infatti è proprio quello il punto, che si passerebbe dal rinnovo della concessione invece alla messa a gara della concessione stessa, che sarebbe una rivoluzione epocale. Giuste le preoccupazioni di chi teme di perdere il posto di lavoro, giuste, dico io, le riflessioni di chi dice però la concorrenza e il mercato questo è. Ma abbiamo capito che comunque le regioni per il momento non si muoveranno. Visto che la cosa non riguarda soltanto il Piemonte, ma riguarda l'intera Italia, dico a tutti coloro i quali, ambulanti o meno, ci stanno ascoltando, di segnalare cose simili, e allora avremo ancora gradito ospite il professor Lottieri, che ringrazio, e magari ancora il ambulante radioascoltatore di Radio 24 Dario Guidetti, che ringrazio. Un sentito grazie va a Fabio Lacorte in studio, Elisabetta Fusconi e Roberto Galullo. Vi auguro una buona giornata.